Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto. Ma per comunicar dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo a una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ogni or ci serve da compare. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino. Ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ti penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire lontan da te mi sento morire. Così l'amore fila nell'accordo più perfetto fra me e la signorina della casa di rimpetto. Si svolge a suon di musica, di jazz e concertin, fra un tango di Barzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Herberto Ravagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano. Perfino Petralia, la Fioresi e il trio Lescan. Suoi accordi risvegliano i ricordi, frasi sommesse e tenere promesse. Se adesso è rotta la vecchia radio galeotta, che importa dolce amor, i nostri cuori cantano ancora.